La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 in questo giovedì 4 di settembre 16:30 primi 22 secondi. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda che potete naturalmente ascoltare in podcast ogni puntata. Se andate sul sito di Radio 24 a sinistra trovate la tendina con tutte le trasmissioni, andate sulla versione di Oscar e ogni giorno potete poi ascoltarla quando e dove e come meglio volete. Allora, siamo praticamente agli ultimissimi giorni, oggi è domenica con questo ultimo This is the End, è in corso il contest da parte vostra, abbiamo avuto un mucchio di proposte, mandatele ancora la versione di Oscar @radio24.it oppure al mio indirizzo giannino@yahoo.com se avete altre proposte per la sigla, perché poi lunedì si parte, per così dire, e che Dio ce la mandi buona nell'interpretare, diciamo, la nuova fase dell'economia italiana, perché purtroppo, come sapete, questo This is the End in realtà ha colto veramente lo spirito di tantissimi anni che sono alle nostre spalle. Oggi in realtà This is the End è, per l'argomento della puntata, ancora adeguato, perché io lo so che non è più di moda, non è più figo, come si suol dire, parlare di chi si toglie la vita per la crisi, però oggi ho deciso di dedicare ancora una volta una puntata a una vittima della crisi, a un imprenditore che si è levato la vita l'altro ieri perché ha processo per non aver pagato l'IVA. Questa volta, ad avermi deciso di farlo, visto che intanto le vittime continuano, non sono solo imprenditori, lo sapete, ce ne siamo occupati a lungo con la campagna Disperati Mai, lavoratori disoccupati, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, voglio dire, le vittime sono state tante. A un certo punto iniziarono a uscire polemiche perché si disse che chi se ne occupava continuativamente soffiava sul fuoco del pessimismo, anzi strumentalizzava per fare informazione gridata. Economisti hanno pubblicato sui social e sui giornali articoli in cui dicevano che in realtà non era giusto farlo, perché le statistiche dei suicidi italiani non consentivano confermare che il fenomeno fosse in aumento. Io ho sempre risposto che mi occupavo dei tantissimi casi che venivano segnalati e che, ohimè, non è colpa mia se noi non abbiamo un sistema di rilevazione, per così dire, degno di un paese civile, di chi storia la vita, cosa veramente singolare da questo punto di vista, nel senso che i motivi dei suicidi restano ovviamente nel petto di ciascuno che, perdendo il controllo di sé, fa questo gesto finale. Però ce ne occupiamo questa volta perché mi ha colpito che finalmente è un evento al quale ha fatto seguito una reazione, perché la mia comprensione è sempre stata quella di vedere poi questi funerali che avvenivano senza il concorso delle istituzioni, nell'imbarazzo generale, nel dolore delle famiglie ovviamente, dei cari e degli amici, ma con un'assoluta incapacità delle istituzioni italiane di rendersi conto che bisognava testimoniare il fatto, a quel punto, di essere vicini a chi, per cose di questo genere, mancati pagamenti, perdita di lavoro, chiusura di impresa, restrizione del credito, faceva e fa ancora oggi scelte di questo tipo. E non è una questione solo di cuore, capite? Anche se il cuore conta. E a questo proposito lasciatemi dire che la fotografia del bambino siriano di 3 anni annegato sulla spiaggia di Bodrum a testa in giù nell'acqua, io non voglio aggiungere le mie parole alle tante polemiche sui giornali stamattina, chi ha pubblicato la foto e chi no. Io credo che chi non ha cuore non è un uomo, e una politica che non si rende conto della portata epocale di questo esodo biblico, e cioè del fatto che siano necessarie risposte all'altezza di un esodo biblico, concertate a livello internazionale, perché siamo in presenza di un fenomeno di fallimento di stati sovrani in Asia e Africa che non ha assolutamente analogie nella modernità, e quella politica, se non è capace di fare questo, non è che non ha solo un cuore, ma soprattutto non ha neanche cervello. E a questo proposito lasciatemi dire che in questa giornata, prima di andare al caso del nostro imprenditore che si è suicidato, sono in corso novità sulla scena europea, forse l'avete sentita al giornale radio, ma sono novità che ancora una volta mi lasciano un po' perplesso. Le vedremo, perché dopo giorni di infuocata polemica che questa volta attraversa tutti i paesi europei, la Francia con la Gran Bretagna a Calais, l'Austria, la Repubblica Ceca e l'Ungheria alle rispettive frontiere, la frontiera tra Macedonia e Grecia e così via, e quindi dopo tante parole sulla necessità di concertare misure nuove con regole comuni e per le quote di ripartizione molto più ampie dei 40.000 che erano stati stabiliti a livello europeo, ebbene oggi arriva tra poche ore, a quanto pare tra due ore, una proposta nuova a Bruxelles, però è ancora una volta una proposta concordata solo tra la Merkel e Hollande, e quindi non è una proposta congiunta estesa ai paesi che sono in prima linea nella frontiera esterna dell'Unione Europea e di Schengen. Ricordate che la Germania non ha frontiere esterne né dell'Unione Europea né di Schengen, a differenza di noi, della Grecia e così via. Comunque, detto tutto questo, speriamo che oggi la politica europea faccia un passo avanti. Ma torniamo alla vicenda di cui ci occupiamo oggi. Come si chiamava questo imprenditore del Vicentino, 53enne di Rosà, appunto in provincia di Vicenza, che nel Bassanese, che si è tolto la vita domenica a Romano, nell'azienda dell'ex moglie. Si chiamava Edoardo Alberton, era un'azienda attiva nel settore delle spedizioni, e Edoardo Alberton aveva subito nella fine dell'anno scorso una richiesta di rinvio a giudizio perché l'Agenzia delle Entrate gli aveva contestato mancati pagamenti di IVA per una somma di circa 170.000 euro, e quindi c'era questo processo penale. Le cose andavano male e alla fine lui si è levato la vita. Ecco, la differenza rispetto alle altre volte è che il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria del Veneto questa volta ha preso carta e penna, e ha scritto al presidente del consiglio. Siccome è capitato rarissimamente, a dire la verità, la cosa mi ha colpito e ho voluto con un abbraccio ai parenti e ai collaboratori di Edoardo Alberton, che l'ha fatta finita domenica sera, chiedere proprio al presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Veneto che cosa lo abbia spinto questa volta a prendere carta e penna, a scrivere al presidente del consiglio, perché al presidente del consiglio, cosa c'entra, qual è il problema, in altre parole che cosa si può fare se da una vicenda come tante altre dolorose alle nostre spalle come questa si possa immaginare che può nascere una iniziativa concreta per i tanti che ancora sono alle prese con problemi analoghi di rientro del credito, di ritardo dei pagamenti dovuti al fatto che le cose hanno iniziato ad andare male. Ed è per questo con noi, per parlarne, per spiegarci perché e che cosa abbia scritto il presidente del consiglio, appunto il presidente di Giovani di Confindustria del Veneto, Giordano Riello. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito a partecipare. Posso chiedere innanzitutto di dire ai nostri ascoltatori quanti anni ha e la sua impresa? Ha un cognome che insomma non ha bisogno di presentazione, però si presenta. La sua impresa che cosa fa? Sì, allora io ho 26 anni, sono da aprile il presidente di Confindustria Giovani della mia regione, del Veneto. Io ho un'impresa che fa illuminazione a LED industriale, mentre la mia famiglia ha delle aziende che sono nell'ambito della climatizzazione e del riscaldamento. Esattamente. Allora, perché ha deciso di scrivere al presidente del Consiglio e cosa gli ha scritto? Ho deciso di scrivere al Presidente del Consiglio dopo l'ennesimo caso, tristissimo caso di suicidi che abbiamo purtroppo collezioniamo nella nostra regione, nel Veneto. E il primo l'ho visto due settimane prima, ho aperto il giornale, ho visto un imprenditore suicidato e devo dire che era il 22esimo suicidio in Veneto nel 2015. Al 23esimo, una settimana dopo, lo sconforto, il dolore e anche la frustrazione nel vedere amici, colleghi che si tolgono la vita mi ha spinto a chiamare e chiedere aiuto a gran voce al nostro Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Questo perché? Perché i problemi economici, che macroeconomici, sono un discorso, però quando vedo un collega, un amico, un imprenditore che si toglie la vita perché è soffocato da una pressione fiscale e dal pagamento d'IVA che non riesce a sostenere, io penso che qui abbia una voce in capitolo importante anche lo Stato, perché di fatto si parla di un omicidio di Stato in questo caso. Lei usa un'espressione per la quale non deve convincere me, però siccome in questi anni me ne sono occupato sistematicamente, la risposta che viene dall'Agenzia delle Entrate, da Equitalia, dall'apparato fiscale dello Stato è: cari signori, noi abbiamo, per effetto della crisi, sia pure con qualche ritardo, tra 2013 e 2014 adottato delle politiche di estensione della rateazione tale per cui non si può dire che non abbiamo fatto il possibile per venire incontro agli imprenditori. Di fronte a questa risposta dell'apparato tributario dello Stato, qual è la sua esperienza invece e la sua opinione? Io penso che questo sia un modo abbastanza subdolo per aggirare il sistema, perché sì, una parte di crediti verso le imprese sono stati sbloccati, però altrettanti se ne sono creati sopra. E se poi mettiamo insieme anche l'impresa che ha da pagare quando ha una posizione di IVA a debito, che sia mensile o trimestrale, questo non importa, e siamo tenuti a versarla a prescindere dall'effettivo incasso della fattura da parte del mio cliente, io questo non lo tollero e non lo accetto, perché mi trovo a sborsare e a pagare dell'IVA della quale non vedrò mai i soldi, perché non avrò mai l'incasso, perché magari il mio cliente è fallito. E questo io lo trovo un sistema assolutamente perverso. E poi si giungono a casi estremi come quello dell'altro giorno, e questo non è un problema di Confindustria del governo, diventa un problema sociale, un problema del paese, perché da quell'imprenditore dipendono collaboratori, maestranze, fornitori e tutto l'indotto che gira attorno all'azienda. E quando incominciano a diventare 560 suicidi dal 2013 al 2015 su scala nazionale, possiamo vedere e notare che comunque l'impatto che c'è anche sulla società civile, e quindi non solo sull'imprenditore singolo, ma su tutto il sistema che ruota attorno all'imprenditore e all'impresa, ha un impatto devastante. E quindi bisogna anche cercare di salvaguardare l'impresa sotto questo punto di vista, perché così facendo si agisce anche sul tessuto non solo economico ma anche sociale del paese. L'impresa di Edoardo Albertoni, imprenditore che si è levato la vita di cui stiamo parlando, era stata anche poi interessata a un'istanza di fallimento, quindi in realtà era una condizione di blocco, il che non lo esimeva naturalmente, con le regole vigenti, a dover sottostare al pagamento dell'IVA, a quel punto con gli interessi e le sanzioni, e al contestuale giudizio penale che era stato richiesto nei suoi confronti. Dal vostro punto di vista, quali ulteriori modifiche bisognerebbe intervenire per venire incontro ai problemi di chi resta colpito dalla crisi nel fatturato, nella restrizione di credito, nella difficoltà di liquidità? E nella riscossione del credito. Certo. Se esiste Equitalia, io credo che bisogna creare un organo che sia paritetico però per l'imprenditore e chiamarlo Equimpresa, e questo come imprenditori di Confindustria Veneto giovani lo stiamo mettendo in piedi, un sistema che vada a comprare i crediti certificati dal MEF, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'imprenditore, in modo tale da rimettere liquidità nel sistema, da dare ossigeno a tutte quelle PMI, che lei lo sa meglio di me che il tessuto industriale italiano è formato per la maggior parte da piccole e medie imprese che da sole non riescono ad avere una forza tale da poter competere e avere forza contrattuale. Rimettendo liquidità del sistema, noi creando un fondo ci accogliamo il credito dell'impresa verso lo Stato, che poi riscuoteremo. Però ci vuole anche collaborazione da parte dello Stato per avviare un processo che possa essere lungimirante e che non veda l'imprenditore contro lo Stato, ma che a sua volta non veda anche lo Stato contro l'imprenditore. Questo secondo me è un processo che bisogna avviare, che è anche un processo di siamo in tema caldi sulle riforme, che è un processo di riforma culturale del paese. Quindi un processo di fattorizzazione dei crediti fiscali delle imprese che sono in ritardo nell'incasso dello Stato. Io ricordo che a fronte delle agevolazioni che ho ricordato prima intervenute nella rateizzazione, di fatto detto, e a fronte delle promesse di pagare poi i debiti ai fornitori, noi abbiamo chiuso un 2014 in cui la liquidazione dei crediti fiscali, soprattutto IVA, alle imprese ha avuto una contrazione sull'anno precedente e non un aumento. Quindi questo aspetto dei crediti fiscali non incassati nel 2014 ha testimoniato che lo Stato andava indietro e non stava andando avanti. Però una vera e propria fattorizzazione fatta anche con capitali privati, ho capito bene la vostra proposta? Esattamente, investitori istituzionali e anche capitali privati, esattamente. Ecco, dalla quale a quel punto far scaturire anche, perché a quel punto è possibile per intermediari finanziari non solo intervenire il capitale ma anche dare risorse, e a quel punto le risorse possono essere anche utilizzate per chi si trova in certificata difficoltà, è così? Esattamente, perché vedendo anche i numeri, che sono la parte chiara, diciamo, che parla meglio della situazione veneta, io parlo della mia regione, su 439.000 aziende che avevamo all'interno del nostro tessuto industriale regionale, ne abbiamo persi in questi anni 22.300, se moltiplicato per il numero di persone e di collaboratori che l'imprenditore aveva, che si sono trovati a casa, è un numero molto grande e non possiamo più permetterci di vivere in questa situazione drammatica di disagio e disastro economico, ecco. Anche se comunque si intravede un barlume di luce, no, però esatto. non deve essere una scusa. Dopo l'interruzione del minuto di informazione stradale andiamo esattamente a questo nuovo aspetto, perché lei lo sa che viviamo in una temperie cultural politica per cui continuare a parlare delle cifre di quello che abbiamo perso in termini di impresa, occupati, reddito pro capite, oggi passa per sembrare volto a continuare a generare pessimismo, a mettere ostacoli allo spirito del neo-ottimismo che vive nel più 0,3 più 0,4 del PIL nel primo e secondo trimestre del 2015 appena corretto dall'Istat e così via. Ed è quindi proprio questa la domanda che le faccio, gliel'anticipo, poi tra un minuto iniziamo a parlare di questo, perché io credo che sia giusto invece non dimenticare mai il fondo in cui siamo scesi, perché è di lì che dobbiamo risalire ed è a quello che vanno riparametrate le prime tossicchianti dimostrazioni di ripresa, però non tutti sono d'accordo su questo. Allora lei che è giovane imprenditore, le credo, come si fa a conciliare il nuovo ottimismo con queste disperanti cifre che lei ha detto del Veneto, non stiamo parlando della Calabria, della Basilicata, cioè della Sardegna, del cuore profondo della desertificazione di imprese e disoccupazione, no, stiamo parlando del Veneto e del Nord-Est. A tra un minuto, intanto informazioni sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornate in diretta, 16:48 primi 47 secondi. Stiamo parlando questo giovedì 4 settembre dell'ennesimo caso di un imprenditore in Veneto che si è levato la vita domenica sera. Edoardo Albertò, 53 anni, di Rosà nel Bassanese, è con noi il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria del Veneto, Giordano Riello, che questa volta ha preso però carta e penna e di fronte al 23esimo episodio in questo 2015 ancora, sì, di ripresa italiana di imprenditore che in Veneto si era levato la vita, ha detto no, ma qui bisogna fare altri passi in avanti, e gli ha ricordato anche l'estremo di una proposta a cui stanno lavorando con capitali privati, ripeto, che consenta di tirare su risorse attraverso la fattorizzazione dei crediti IVA non incassati da parte delle imprese vantati verso lo Stato, per creare un fondo che a quel punto possa mettere a disposizione risorse per salvare le imprese in difficoltà, invece che farle chiudere e far perdere il lavoro a chi ci lavora e far perdere magari anche la vita a chi si spera a quel punto, perché ha preferito pagare i collaboratori eccetera eccetera, i fornitori, piuttosto che pagare l'IVA, come era il caso di Alberton. Abbiamo due chiamate, poi torniamo con Giordano Riello per vedere come si fa a coniugare insieme l'ottimismo e la disperazione per tutto quello che abbiamo perso in questi anni. Però le chiamate credo che siano su altro, perché abbiamo fatto accenno anche alla faccenda del bambino siriano. Sentiamo Luciano da Roma, prego Luciano. Buon pomeriggio. Una cosa banale, semplice. Sento parlare che l'Europa deve organizzarsi, coordinarsi, accogliere, andiamoli a prendere. Ma una voce che dica di fermare la guerra, come mai non si alza? Luciano, la risposta è che sia nel caso della Siria, sia nel caso dei collassi della fascia subsahariana, sia di stati dal Mali, eccetera, eccetera, sia nel caso dell'Afghanistan, cioè i grandi posti da cui provengono i flussi attraverso i tre corridoi balcanici, Turchia, Grecia e Italia, perché le responsabilità dell'Occidente sono A, gravi, B, divise, perché non sono state condivise area per area, e quindi c'è un enorme, ipocrita complesso di colpa e di rimozione da parte dell'Occidente. Si ricordi la missione in Libia voluta da francesi e britannici, meno dall'Italia, che ha originato il collasso della Libia, da cui provengono, per quello che riguarda la sola Italia però, più dell'80% degli sbarchi nel nostro paese, e purtroppo questa è la risposta amara che io posso darle da mero osservatore. Roberto da Milano, prego Roberto. È caduta la linea. Allora, torniamo con Giordano Riello, se Roberto poi l'ho richiamato lo mandiamo in onda. Giordano Riello, come si fa a ricordare insieme i numeri che lei ci ha detto delle imprese, dei posti di lavoro persi in Veneto, con lo spirito di nuovo ottimismo a cui ogni giorno, da mesi, il Presidente del Consiglio richiamano tutti? Io credo che sia giusto, però c'è chi ritiene che se noi continuiamo a ricordare queste cose, a fare trasmissioni su cose come quelle di oggi, è come se stessimo continuando a diffondere un'aria di pessimismo. Per carità, sicuramente si può potenzialmente diffondere un'area di pessimismo, però le rispondo portando un esempio pratico. Cosa ho fatto io in ufficio? Sì. Nella mia piccola startup ho preso due fogli bianchi, su uno mi sono scritto e l'ho incollati sulla porta di fronte a me, su uno ho scritto il numero delle aziende che in questi anni hanno chiuso e lo continuo a aggiornare, e il numero delle persone che si sono tolte la vita, e sull'altra parte ho incollato anche una frase di Einstein, che guarda, gliela leggo perché sono seduto in ufficio e ce l'ho di fronte, e dice, recita: è nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera se stesso senza essere superato. Avendo chiari, secondo me, questi due temi che sono assolutamente contrastanti ma complementari, e capitalizzando tutte le esperienze negative nostre e dei nostri colleghi, io penso che si possa migliorare e far migliorare anche il nostro tessuto economico sociale. E nonostante tutti questi numeri drammatici, c'è un cambio di passo per l'economia regionale veneta. Siamo passati a un più 1% nel 2015, che è uno dei risultati migliori, sì, nella nostra azione. Questo sicuramente anche per alcune manovre che sono state messe in piedi nella legge di stabilità del 2015. Qui parlo anche delle assunzioni. La decontribuzione ai nuovi contratti, Jobs Act e così via. Sì, c'è stato un incremento del 13,5% quasi di assunzioni nella mia regione. Quindi, tenendo ben chiaro questi due punti, cercando continuamente processi innovativi, che sono i processi chiave per i quali siamo riconosciuti come seconda potenza economica europea e sesta mondiale, e nonostante la situazione nella di manifattura. Forte difficoltà, esatto, nella manifattura, nonostante la situazione di forte difficoltà, abbiamo mantenuto e non abbiamo perso posizione. Posso farle una domanda? Secondo lei, da imprenditore, lei è d'accordo sul fatto che l'anno prossimo il governo, come ha detto e ha confermato Renzi ieri, parte dall'abolizione delle tasse, i mutasi, prima casa e così via, piuttosto che concentrarsi su IRPEF, IRES, cioè su capitale del lavoro, o se dipendesse da lei invertirebbe la priorità? Qui è un cane che si morde la coda, perché tagliando le tasse sulle persone fisiche sicuramente si può ricreare fiducia sulla classe media, che è la classe prevalente in Italia, e così si può ritornare a spendere. Però se d'altro canto queste persone non hanno possibilità di lavoro, perché comunque le imprese sono soffocate da una pressione fiscale elevatissima, la curva di Laffer la conosce meglio di me, non sono nelle condizioni di poter spendere. Secondo me bisognerebbe fare un'operazione capillare, togliendo, come le dicevo prima, l'imposta IVA sui fallimenti, e poi andare a toccare anche le persone fisiche, che sono le persone che realmente spendono i soldi nel territorio. Effettivamente l'idea che si paga l'imposta quando si è falliti è un'idea da stato fallito, perché vuol dire che non è capace di ragionare e crede di prendere soldi laddove soldi non ci sono, e bisogna pensare a quel punto ai creditori, ai dipendenti e così via. Federico da Forlì, sentiamo Federico, qual è la sua opinione? Buongiorno Giannino. Buongiorno. No, io volevo confrontarmi su un altro discorso, il fatto che come facciamo a intervenire e convincere gli imprenditori a investire nel nostro paese quando la tassazione sugli utili è la più alta d'Europa. È di questo stiamo parlando. Esatto, in più il costo del lavoro è il più alto d'Europa, il costo dell'energia è il più alto d'Europa, abbiamo un contenzioso per recuperare dei crediti, è il più lungo d'Europa. E poi quello che mi stupisce è che ci sono alcune nazioni, tipo l'Austria, mi riferisco alla Svizzera, confinanti con l'Italia, che non hanno un tasso di disoccupazione alto come il nostro, che non hanno un deficit pubblico alto come il nostro, che riescono a convincere i nostri imprenditori ad andare a investire presso di loro. Cioè, quello che dovremmo far noi in Italia lo fanno loro che non hanno... E soprattutto hanno una pressione fiscale inferiore alla nostra, avendo meno deficit, tenendo le finanze pubbliche in equilibrio e, diciamo così, offrendo servizi pubblici e un welfare generale che secondo me è migliore del nostro, tranne che nella sanità. Quindi la dimostrazione vivente che si può fare di meglio spendendo meglio, meno e facendo poi più libere risorse per la crescita, l'investimento, l'occupazione e così via. Però sa, non deve convincere me di questo, siamo in una condizione tale per cui col 51% di spesa pubblica sul PIL Renzi dice non mi potete chiedere di abbattere 10 punti in un anno e tra me e le alternative gli altri in realtà vorranno spendere di più e tassare ancora di più. Bah, questa è l'alternativa abbastanza inverosimile, almeno secondo me, perché si può fare, si poteva fare di meglio. Io intanto ringrazio Giordano Riello per aver messo non solo carta nero su bianco al Presidente del Consiglio, ma perché come vedete c'è chi propone di fare anche con finanza privata per rimediare ai crediti che lo Stato non paga alle imprese, e grazie soprattutto ai familiari di Edoardo Alberton che si è levato la vita. A domani e continuate con Radio 24.